questa nostra meditazione nella prima settimana della Quaresima, io vorrei tornare insieme con voi su quello che abbiamo letto e meditato nella prima domenica di Quaresima, che da tanto tempo è tradizionalmente la domenica nella quale si legge il Vangelo delle tentazioni di Gesù. E come sapete la liturgia romana è fatta di tre cicli A, B e C, e quindi in tre anni diversi si leggono i tre Vangeli sinottici che parlano delle tentazioni di Gesù. Il Vangelo di San Matteo, di Marco e di Luca, no? San Marco e San Luca. Quest'anno abbiamo letto il Vangelo di San Marco. Io vorrei tornare con voi su questo mistero della vita di Gesù, perché ci riguarda molto da vicino. In realtà ci riguarda da vicino tutto quello che è la vita di Gesù, perché Gesù, venendo al mondo, incarnandosi il Figlio di Dio, e ci spiega il Concilio Vaticano II, che si è unito in qualche modo ad ogni uomo, già con il solo fatto di essere diventato uomo, è diventato il nuovo Adamo, e Maria sua madre è la nuova Eva, la madre di tutti i viventi, e dal punto di vista della vita soprannaturale, da figli di Dio. Quindi ogni cosa, ogni aspetto della vita di Gesù, ogni particolare, ogni istante, potremmo dire, della sua esistenza, ci riguarda da vicino. E noi con il battesimo, in quanto cristiani, siamo stati inseriti nella sua vita. Per questo ci interessa tanto la vita di Gesù, perché è un po' anche la nostra vita. E diciamo, conoscendo la vita di Gesù, noi possiamo comprendere la nostra vita, capire come ci possiamo identificare con Lui, come possiamo seguirlo sul suo stesso cammino, seguire la sua strada, no? la via che Lui ha tracciato, anzi, che Lui è. Lui dice a noi: io sono la via. E allora questo episodio della vita di Gesù, per esempio, vi cito il libro di Benedetto XVI, Gesù di Nazareth. Voi sapete che lui ha scritto tre libri su Gesù, no? E il primo comincia col battesimo di Gesù e il secondo capitolo sono proprio le tentazioni di Gesù, no? Quindi, per farvi capire, per capire noi insieme, che questo capitolo, anche per Benedetto XVI, che cercava di parlarci di Gesù sulla base del Vangelo e della teologia, e anche per lui questo capitolo è importante. E il Papa Benedetto XVI diceva che queste tentazioni che Gesù soffre nel deserto sono altre importanti e sono conseguenza del battesimo, sono nella stessa linea, lui le vede, così come nel battesimo Gesù, che non aveva bisogno di riceverlo, era un battesimo di penitenza per i peccati, no? E Gesù non era peccatore, era l'unico che non era peccatore, no? Eppure ha voluto mettersi in fila con i peccatori, ricevere comunque quel battesimo. L'ha chiesto a Giovanni, che non glielo voleva dare perché non c'era motivo di darglielo, perché per prendere su di sé tutti i nostri peccati. E nel momento della tentazione, che è successivo al battesimo, quindi Gesù nel battesimo riceve quest'acqua e in qualche modo si mette come peccatore tra i peccatori, pur non avendo peccato, e poi riceve l'unzione dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che si manifesta come pienezza su di lui di Dio, no? Quindi siccome il Messia significa l'unto del Signore, il consacrato del Signore, allora sapete che in quell'epoca il segno dell'olio sul capo era significato, cioè significava l'essere del Signore, il ricevere una consacrazione, vuoi per essere sacerdote oppure anche per essere re. Allora Gesù riceve quella consacrazione dello Spirito Santo e la voce del Padre che manifesta che lui è suo figlio, il prediletto. E subito dopo, sorprendentemente, leggiamo nel Vangelo che lo Spirito Santo lo conduce nel deserto per essere tentato dal diavolo. E il Papa Benedetto dice anche questo va nella stessa linea, cioè Gesù vuole percorrere tutta la nostra vita, vuole entrare fino nelle profondità anche più drammatiche della nostra esistenza e quindi si lascia tentare dal demonio, si lascia mettere alla prova. In effetti proviamo a leggere insieme il Vangelo di Marco, che è brevissimo. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Questa è la scena di Gesù nel deserto secondo San Marco, brevissima. È brevissima, però a noi può servire molto, io penso, perché guardiamo questo Gesù sospinto dallo Spirito Santo. Intanto vediamo un Gesù che si lascia portare dallo Spirito Santo. E noi questo lo possiamo desiderare, possiamo desiderare di imitarlo in questo, e possiamo anche dirlo nella nostra preghiera, Signore Gesù, anch'io voglio lasciarmi portare dallo Spirito Santo, dove lo Spirito Santo vuole. Naturalmente noi sappiamo che nella maggior parte dei casi i cristiani non è detto che debbano essere portati chissà dove dallo Spirito Santo, ma nell'ambito della nostra vita normale, ordinaria, come un normale battezzato cristiano che fa il suo lavoro, che viene portato dalle vicende della vita, di qua e di là, a fare un lavoro o un altro, a mettere in piedi una famiglia, ad avere dei figli, ad operare nella società per il bene. Però anche all'interno di un progetto che noi possiamo pensare questo è il luogo dove mi porta lo Spirito Santo, no? Cioè quindi pensando proprio alla vocazione globale della persona, però anche all'interno di un cammino normale ogni giorno lo Spirito Santo ci può condurre, ci può sospingere, per esempio ci può suggerire di fare un atto d'amore, di andare verso una persona per aiutarla, di mettersi a disposizione, ecco, per gli altri. Molto spesso lo Spirito Santo ci porterà a compiere il lavoro di ogni giorno che sappiamo che ci tocca e che magari ci può piacere, però ci può anche costare. Insomma, comunque noi chiediamo allo Spirito Santo che ci guidi. E in questo noi imitiamo Gesù, ci identifichiamo con Gesù. E che cosa anche all'inizio della giornata possiamo chiedere allo Spirito Santo? Che cosa vorrai oggi suggerirmi? Dove mi vorrai portare? E noi abbiamo un progetto, un programma che compiremo. Andiamo al lavoro, andiamo all'università, abbiamo degli appuntamenti di vita normale, ma qualche volta straordinariamente lo Spirito Santo ci potrà portare altrove, ci potrà suggerire una cosa diversa che non avevamo previsto. Succede qualche episodio un po' singolare e ci invitano altrove e noi andiamo e poi scopriamo perché. Ma molte altre volte all'interno del progetto normale della nostra giornata lo Spirito Santo ci può spingere e sospingere In un deserto, sospinse Gesù nel deserto, che il deserto sapete che cos'è? È il luogo dell'incontro con Dio, è il luogo del dialogo con Dio. La parola ebraica con cui nella Bibbia si designa il deserto è una parola che significa il luogo della parola. Midbar, no? Da bar è la parola e il luogo della parola, perché il deserto per l'esperienza del popolo eletto da Dio è il luogo dove più facilmente Dio si manifesta, dove Dio parla alla persona che ha scelto e gli dà la sua missione. E allora anche noi possiamo essere sospinti in un deserto che sarà qualche minuto di preghiera, che sarà entrare in una chiesa a salutare Gesù sulla croce, Gesù nell'Eucaristia, racchiuso nel tabernacolo, un'immagine della Madonna, ad ascoltare la sua voce, a vedere che cosa ci vuole dire. Oppure il deserto del cuore, cioè dove il Signore parla, pur nel frastuono della strada, della vita ordinaria, di un lavoro magari molto, appunto, molto interrotto, molto frenetico. Nel deserto del cuore noi troviamo il Signore e gli offriamo quel lavoro e gli chiediamo aiuto per quel lavoro e gli chiediamo aiuto per compierlo bene, per compierlo con le virtù cristiane, per compierlo con carità, per compierlo per la sua gloria, perché vedano le persone attraverso la manifestazione dei figli di Dio che si può lavorare bene, che si può lavorare con gioia, che si può lavorare con onestà e con apertura agli altri. Altre volte si sospingerà appunto verso le persone, no? Attenti alle persone con cui lavoriamo, con cui studiamo, con cui ci divertiamo, con cui siamo in famiglia. Attenti al bene comune, al bene di tutta la società, di tutta la Chiesa. Ci porterà a pregare per gli altri, non solo per noi. Gesù, tu Gesù ti fai portare dallo Spirito Santo. Anche in altri momenti del Vangelo, quando dopo poco San Marco racconterà che dopo la prima giornata di Cafarnao lui si alza prima degli altri, va in un luogo deserto a pregare e poi Pietro lo raggiunge perché tutti ti cercano, c'era una folla di persone che lo cercavano perché si era diffusa la fama che il giorno prima aveva guarito molti, aveva scacciato molti demoni. E allora Gesù dice: andiamo anche altrove perché per questo sono venuto. Quindi tu Gesù ti fai spingere dallo Spirito Santo e, ecco, verso altri luoghi, verso altre persone. E Gesù, è sorprendente comunque che lo Spirito Santo abbia sospinto Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, per cui noi possiamo chiederci: ma Spirito Santo, cosa hai fatto? Hai portato Gesù nel deserto perché fosse tentato da Satana? No? Potrebbero pensare che addirittura ha fatto una cosa cattiva, che è impossibile. Evidentemente è tutto nel piano di Dio, però questo ci può aiutare a pensare che quando noi viviamo un periodo difficile, quando noi viviamo un periodo di prova, non dobbiamo intendere la tentazione solo come una banale così spinta a commettere qualcosa che è peccato, no? Che può succedere anche questo, ma in generale possono essere cose anche più sottili, più sofisticate, più profonde, no? Che è interessante che noi sappiamo scoprire, lo chiediamo allo Spirito Santo oggi, lo chiediamo a Gesù che ci aiuti a scoprirlo in questi 40 giorni di Quaresima, e ecco in che cosa il nemico di Dio mi può tentare, no? In che cosa mi può tentare anche la mia fragilità, oppure le circostanze in cui sono messo, no? Però il fatto che lo Spirito Santo abbia portato nel deserto Gesù per essere tentato da Satana significa che questi periodi di prova, queste difficoltà che tutti possiamo soffrire, attraverso le quali tutti passiamo, ogni vita umana ha periodi di difficoltà e in un certo senso a volte sembrano quasi non finire mai, no? Cambiano di segno, cambiano di genere, insieme a tanti periodi belli, a tanti momenti, a tante giornate di sole, poi ci sono le giornate invece di pioggia, alla giornata succede la notte, quindi il buio, alla luce il buio, insomma ci sono alle stagioni di bel tempo, ci sono le stagioni di cattivo tempo, così è la vita dell'uomo, no? Come il lago di Genezaret, che a volte ha bonaccia, altre volte ha tempesta. I giorni difficili, i periodi difficili possono essere non in contrasto con il disegno di Dio, non in contrasto con il progetto di Dio sulla nostra vita, con il sogno di Dio sulla nostra vita, non in contrasto con il nostro essere con Gesù, con il nostro vivere con Gesù. Anzi, in quei momenti possiamo pensare, ecco Gesù, anche se io preferisco istintivamente stare con te sul Tabor, quando sei trasfigurato, quando sei bellissimo, quando tutto è meraviglioso, quando tu parli con Mosè, con Elia, quindi tutta la storia della salvezza si capisce, si raduna, è tutto chiaro, la storia del mondo, la storia mia personale, ed è così bello contemplare questa squarcio del cielo, tanto che San Pietro dice, sai che ti dico, facciamo qua tre tende per voi tre, noi non ci abbiamo problemi, dormiamo anche alla diaccio, ma cioè, noi stiamo qua, è così bello. E invece Gesù dice no, scendiamo giù in pianura dove eravamo prima, dove abbiamo sempre vissuto, dove ci sono le difficoltà, infatti appena scendono c'è un problema, I discepoli stanno cercando di liberare un ragazzino dal demonio e non ci riescono e tutti discutono e il problema continua e deve intervenire Gesù. Cioè la pianura della nostra vita ordinaria è piena di problemi, di difficoltà, di questioni, ma tutto questo è coerente con Gesù. Gesù ci sta dicendo, guarda che in questo modo si realizza la tua salvezza e la salvezza di tutti gli uomini. E così ho fatto io. Vieni dietro a me, seguimi, vieni sulla mia strada, vieni nel mio cammino, vieni a trovarmi nella mia solitudine del deserto, vieni con me a farmi compagnia in quel deserto. Così comprenderai il tuo deserto, il tuo periodo di prova, che a volte è data dalla solitudine, è data dall'incomprensione, è data dalle difficoltà nel lavoro, è data dalle difficoltà della società, del mondo, no? Ogni giorno noi sentiamo notizie che ci preoccupano più che incoraggiarci, no? Notizie anche tragiche. Noi in questo momento preghiamo per i cristiani perseguitati, quelli che perdono la vita per la loro fede, in questi tempi di guerra. E preghiamo per tante cose che anche non conosciamo, per tante persone che sono vittime di ingiustizie molto profonde, preghiamo per chi non ha lavoro, preghiamo per chi è malato, no? E a volte la prova può essere anche questa, il fatto che non riusciamo a vivere bene interiormente nella nostra vita spirituale, nella nostra vita cristiana come vorremmo. E allora questo ci prova, perché ci può scoraggiare, ci può portare a dire lascio perdere, chi me lo fa fare, no? Questa può essere la tentazione, è difficile, no? Non ci riesco, non sono all'altezza, e così via. Questi periodi di prova, se noi li vediamo attraverso il deserto di Gesù, sospinto proprio lì dallo Spirito, forse proprio anche per insegnare a noi che questa è la strada che Gesù percorre per la nostra salvezza, e quindi anche ha significato quello che accade a noi, non ha significato positivo solo il periodo bello, il periodo luminoso, il periodo di salute piena, il periodo di successo professionale, il periodo di pace sociale che tutti cerchiamo di costruire, ma ha un significato, anche se più doloroso, più faticoso da accettare, anche il periodo della prova. E noi chiediamo all'aiuto della Madonna, nostra Madre, che appunto che otteniamo questa grazia di accorgerci nel momento opportuno, oppure che ci sia qualche persona cara, qualche amico, qualche amica, qualche sacerdote che ci conosce, che ci possa ricordare che in quel periodo noi ci possiamo unire a Gesù più profondamente, che ci sia una parola del Papa che leggiamo, che ci sia una predica che ascoltiamo, che ci sia un angelo che ci serve, come servivano Gesù in quel deserto, e che ci ricorda, sussurrandocelo all'orecchio, guarda che questo che ti sta succedendo è successo anche a Gesù. Infatti il capitoletto, cioè la frase, scusate, che dice San Marco dopo, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Questa è una visione idilliaca, quasi da paradiso terrestre, come Adamo nel paradiso terrestre passeggia con Dio, e allo stesso tempo tutte le bestie, anche quelle che oggi sono selvatiche, appunto, e anche addirittura feroci, invece in quel tempo paiono buone, cioè e vicine all'uomo, e gli obbediscono e lo servono. Ecco, Gesù nel deserto sta in pace. Cosa vuol dire? Vuol dire che Satana lo ha tentato, ma lui è riuscito a vincere queste tentazioni, e quindi sta in pace con tutta la creazione, e gli angeli di Dio lo servono. Questa è una bellissima immagine nella quale noi dobbiamo cercare, noi cristiani, di identificarci, di entrare, cioè anche noi dobbiamo avere della vita, pur sapendo che c'è deserto con tentazioni, della vita cristiana, della vita di noi con Cristo, una visione bella, serena, ottimista. Gesù ci dice: io ho vinto il mondo, dice ai suoi discepoli, non abbiate timore, io ho vinto il mondo. Allora, appunto, l'Apocalisse lo chiama spesso vittorioso, il vincitore, no? E anche noi veniamo chiamati, cioè veniamo invitati a essere identificati con il vincitore, a cui Gesù dà, ecco, la pietra bianca con scritto il nostro vero nome. Quindi questo per la nostra vita spirituale personale, per la nostra vita interiore personale, può essere un'immagine che ci aiuta a vivere la Quaresima con ottimismo e con gioia, e anche a vivere i periodi di prova con la certezza che il Signore è con noi, e con noi, e ci aiuta a vincere. Subito dopo si vede che Gesù viene a sapere che Giovanni è stato arrestato e comincia la sua predicazione: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Io penso che anche qui possiamo vedere un'analogia con la nostra vita. Gesù ci incita a pensare che quando viviamo un periodo di prova, di difficoltà, anche di difficoltà a vivere la fede, questo non è in contrasto col fatto che dopo possiamo essere apostoli e annunciare che Gesù c'è, che è vivo, che si è incarnato, che è morto per noi, che è risorto, e che quindi che è presente, che ci nutre con la sua Eucaristia, che ci dona il suo perdono, in modo particolare nel sacramento della penitenza, pensate che ho sentito raccontare da un sacerdote amico che era andato, lui va in piscina per come suo sport e un giorno esce dalla piscina e si rimette la camicia dove si vede che è sacerdote e un altro avventore, un altro sportivo, gli dice: "Ma lei è sacerdote?" E sì, io ho proprio bisogno di confessarmi. E allora sono usciti fuori e ha potuto dargli questa grazia di Dio. Tante cose di questo tipo accadono nella vita dei sacerdoti, anche chi sul treno, chi no, mi hanno raccontato tante cose di questo tipo, chi per strada viene fermato, e chi una volta addirittura uno mi raccontava che al casello dell'autostrada, il casellante gli ha chiesto, e allora lui poi nel viaggio di ritorno si è fermato per poterlo confessare. La gente ha desiderio del perdono di Dio, vuole la sua grazia, vuole la sua forza, e quindi a volte se vedi un prete che passa lo può chiedere, no? Però appunto noi dire alle persone che Dio è vicino e ecco, il regno di Dio è vicino, Dio è vicino. Dio ti cerca, Dio ti ama, Dio ti cerca come una pecorella smarrita, è venuto per te. Questo lo possiamo dire anche se noi siamo in un periodo di prova. E non c'è bisogno di essere in grande forma spirituale per dire: guarda che il Signore c'è e aiuta. E certo, voi forse vi ricorderete, questo è il Vangelo che abbiamo letto quest'anno, che negli altri Vangeli di Matteo e di Luca sono descritte le tre tentazioni. Satana dice a Gesù che ha fame, dopo 40 giorni di digiuno, se sei il figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Poi gli dice: se sei il figlio di Dio, lanciati dal punto più alto del tempio, e perché c'è scritto nella Bibbia che gli angeli verranno a prenderti, no? E poi dopo lo porta in alto su un monte e gli dice: guarda che se tutti questi regni della terra, tutto il mondo si prostrerà a te se tu mi adorerai, no? Quindi allora io ho pensato di queste. Papa Benedetto fa una bellissima esegesi di queste tre tentazioni. Io pensavo di dire a voi che in questa nostra linea di identificarci con Gesù che viene tentato, pensate se non siamo noi messi alla prova quando cerchiamo di parlare di Dio, della nostra fede, nel nostro ambiente, e possiamo avere delle obiezioni. E non ci dobbiamo spaventare delle obiezioni. A volte sono obiezioni per cercare di capire meglio e noi dobbiamo cercare di riuscire a rispondere con la nostra, con il nostro studio, con la nostra preghiera, con lo Spirito Santo che ci ispira. Però pensate che queste tre tentazioni di Gesù possono essere obiezioni che ci fanno proprio alla stessa esistenza di Dio, perché uno può dire: ma come, tu mi dici che Dio esiste, eppure c'è la fame nel mondo, no? C'è il problema da sempre del pane. Perché Dio non risolve il problema del pane, no? Oppure noi parliamo appunto di Gesù che è il nostro Salvatore, che è il nostro è Dio, che è il nostro amore e loro possono dire: ecco, ma perché quando accade qualche disgrazia, appunto, non arrivano gli angeli, Dio non interviene per salvare qualcuno che è caduto, che è precipitato, che come capita a volte nelle vicende umane, no? Oppure ancora quando ci possono obiettare la tentazione sui regni della terra, no? Tu mi parli di Dio, ma guarda i regni della terra che sono tutti in guerra, che sono tutti, quando, guarda quanto male c'è, perché Dio non ha instaurato un regno in cui sia tutto sistemato, no? Che sia tutto in pace, che sia tutto ordinato, che sia tutto bene. E allora noi potremmo rispondere, guarda, che queste obiezioni le ha fatte lo stesso demonio a Gesù, e quindi vuol dire che il regno di Dio si muove su un altro piano, no? E anche possiamo dire che chiama noi che siamo credenti, ma anche tutti coloro che chiama a credere, no? A lavorare perché si risolva il problema della fame, ad accettare che in questo nostro mondo che Dio ha creato le cose avvengano secondo la natura, no? Qualche volta, raramente, il Signore interviene e compie dei miracoli, no? Però li compie qualche volta, non sempre, sempre sulla base della preghiera che noi facciamo, soprattutto se è una preghiera unita. Allora il Signore compie quel miracolo perché in questo modo ci ha coinvolto nel costruire il bene. Il Signore non, in questa fase, no, da quando c'è stato il peccato originale a quando ci sarà il termine della storia, il Signore lascia che i problemi ci siano perché questi ci interpellano, ci muovono ad agire, ci muovono ad amare, ci muovono a uscire da noi stessi. Quindi anche tu, Signore Gesù, ci coinvolgi nella lotta per compiere il bene, nella lotta per costruire la civiltà dell'amore. E però non ci hai dato una certezza che questa possa avvenire, che possa avvenire in questo momento, non ci hai dato, ci hai lasciato liberi e in ultima analisi possiamo dire che non ci hai dato la chiave di lettura di tutta la storia, nel senso, voglio dire, non ci hai detto tutto quello che avverrà. Quando i discepoli, la chiave di lettura evidentemente è l'amore di Dio per noi, il disegno della salvezza, ma non ci hai detto come avverrà e quando avverrà, ci hai detto fatelo voi, lanciatevi, andate in tutto il mondo, predicate, battezzate, amatevi come io vi ho amato, fate vedere che cos'è l'amore di Dio attraverso l'amore che avete tra voi. Ma quando i discepoli gli dicono ma quando instaurerà il regno di Israele, Gesù dice non è dato a voi di conoscere i tempi, i momenti. Allora, e certo, questo è un atto, è un profondo atto di umiltà dell'uomo, no? Noi vorremmo sapere tutto, avere tutte le risposte, e invece il Signore ci lascia nell'incertezza, però ci coinvolge nella storia della salvezza, ci coinvolge nell'amore e anche ci coinvolge quando ci lascia tentare, perché la tentazione ci aiuta a radicare più profondamente la fede e anche tutte le altre virtù cristiane. Per questo, anche se fa male vivere un periodo di prova, un periodo di tentazione, noi dobbiamo quasi quasi ringraziare il Signore. Mi fai fare il tuo stesso cammino. Donami la tua grazia, senza di te non posso nulla. Non lasciarci vincere dalla tentazione, no? Dirà, mi pare, sono parole un po' a senso, la nuova formulazione del Padre Nostro, no? Che c'è già nella Bibbia della Cena. Non lasciarci soccombere dalla tentazione, ma liberarci dal male. Allora, io penso che possiamo concludere questa meditazione chiedendo la luce e la grazia della intercessione della Madonna, dell'intercessione mariana, perché lei sicuramente in qualche modo ha saputo di questi 40 giorni e poi Gesù gli aveva raccontato quello che è successo e lei ha sofferto con lui e poi lo ha accompagnato lungo tutti gli anni della sua vita pubblica nei quali in fondo tutte queste prove sono continuate. Ecco, che la Madonna ci aiuti a sentirci figli di Dio in Gesù e insieme con Lui a lottare per vincere con ottimismo e per diffondere il suo regno.